Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Si apre in Vaticano alla presenza di Papa Francesco il sinodo straordinario sulla famiglia, che durerà 2 settimane. Sul tappeto temi caldi come coppie di fatto, aborto, separazioni, unione gay, comunione ai divorziati e ai risposati. E il relatore generale del sinodo, il cardinale di Budapest, Peter Erdo, tra le sfide pastorali tocca anche il tema dei divorziati risposati. Per quel che concerne i divorziati che si sono risposati civilmente, non pochi ribadiscono che bisogna tener conto della differenza tra chi colpevolmente ha rotto un matrimonio e chi è stato abbandonato. La pastorale della Chiesa dovrebbe prendersi cura di loro in modo particolare. I divorziati risposati civilmente appartengono alla Chiesa. È un tema che abbiamo trattato un'infinità di volte, quello del matrimonio. E tutte le volte che abbiamo parlato con esperti matrimonialisti, con osservatori del costume, siamo arrivati alla conclusione che in realtà esiste una grossa, profonda, insanabile ambiguità su come venga considerata l'unione matrimoniale nel nostro paese. Io penso che il matrimonio fra due persone è un lecito e anche auspicabile patto, contratto civile per cui due persone decidono che a un certo punto la loro vita la vogliono vivere assieme. E per vivere una vita assieme è importante anche mettersi d'accordo su quelli che sono i propri beni patrimoniali, e la gestione dei propri figli, la propria casa, la propria vita, e quindi il matrimonio, questo dovrebbe stabilire alcune regole perché le persone stiano assieme. Naturalmente nel nostro paese però esiste un grosso, profondo, reale vincolo che, avendo noi fatto un concordato, il matrimonio civile è in qualche maniera contaminato dal matrimonio religioso. Non lo dico in termini negativo, contaminazione, lo dico che comunque le due istituzioni procedono pari passo. Anche chi soltanto civilmente si sposi, comunque sia, se decide che a un certo punto la storia finisce, il matrimonio finisce per qualsiasi ragione, anche come diceva il cardinale che parlava, per colpevolezza di una delle due persone, comunque ci sono un'infinità di difficoltà. Perché? Perché si parte sempre dal principio che il matrimonio sia indissolubile. Se qualcosa che si cuce nelle sfere celesti, gli uomini non possono disciogliere se non attraverso un'infinità di sofferenze. Si sta muovendo qualcosa però in questa direzione. Da una parte, nel sinodo tra cardinali, è tra i temi all'ordine del giorno, temi bollenti, anche quello delle unioni matrimoniali. Leggo questa mattina che ci sono due correnti interne, poi vedremo se è vero così, su chi dice che bisogna fare delle aperture nei confronti delle persone separate, dice no, chi è separato e chi è divorziato vive nel peccato, quindi nemmeno la comunione bisogna dargli. E ci sono anche delle novità dal punto di vista legislativo sul fatto delle separazioni, dei cosiddetti divorzi brevi, poi tali non sono. Beh, in questa vicenda vorremmo cercare di chiarire, usando una persona esperta in ciò che è il diritto, perlomeno laicamente inteso, e chi segue però le vicende anche della Chiesa in maniera molto capillare. Quindi ho due ospiti questa mattina, invito gli ascoltatori a intervenire, a chiamare l'800240024. Primo, Ignazio Ingrao, buongiorno. Buongiorno a voi. Vaticanista e Panorama, ha pubblicato un libro, Il Concilio Segreto, edizioni PM, e sta osservando attentamente quelli che sono i lavori del Sinodo. Alla luce di questa mia sconquassata introduzione, Ignazio, sta accadendo qualcosa di nuovo? Stanno cominciando a considerare un punto di vista più orientato e polarizzato sul fatto che chi è veramente credente deve vivere anche il matrimonio religioso da credente? Non ci sono più ambiguità, non si va al matrimonio perché sono belle le chiese e ci sono tanti fiori, una bella cerimonia, ma chi crede deve seguire un certo iter, e chi non crede deve essere considerato come una pecorella che può sempre in qualche maniera tornare all'ovile, ma che segua pure il suo iter di persona laica. È questo l'orientamento? Sì, assolutamente sì, e insieme a questo orientamento c'è anche l'osservazione, come è stato detto in quella relazione che tu citavi, che ci sono dei germi di verità e di positività anche nelle unioni di fatto, nelle convivenze, così come nei matrimoni civili. Questa è una grande novità, cioè non più additate come delle realtà che danno scandalo, ma come delle realtà in cui comunque ci può essere e c'è il vero amore, c'è anche l'impegno, e quindi anche la Chiesa le guarda con occhi diversi. E allora la cosa si rovescia anche, nel senso che poi il vedere l'indissolubilità del matrimonio in un quadro anche diverso dal passato consente anche di chiedere a chi sceglie quella strada una maggiore chiarezza di impegno, anche dal punto di vista della fede, non solo dal punto di vista del colore e del folklore dello sposarsi in chiesa. Quindi una preparazione che richiederà più tempo e più impegno, cioè non si bleffa, se vuoi sposarti in chiesa devi seguire un iter, oggi per fare una cresima a un figlio bisogna passare 2 anni di catechismo o qualcosa del genere, varrà anche per il matrimonio. Cioè si chiede che ci sia che il requisito della fede effettivamente degli sposi sia un requisito effettivamente accertato, ma d'altra parte però si sta anche studiando, il Papa ha creato una commissione a questo scopo, come rendere più celeri i processi di nullità matrimoniale, quindi di riconoscimento di tutte quelle situazioni dove appunto per mancanza di fede, di convinzione degli sposi e via dicendo, in realtà il matrimonio è da considerarsi nullo, quindi come se non fosse stato mai celebrato. E questo è un altro punto molto delicato, perché oggi invece la procedura dinanzi ai tribunali ecclesiastici è piuttosto complessa, prevede addirittura 2 sentenze che siano conformi. Questo non significa fare il divorzio breve anche nella Chiesa, significa piuttosto però affrontare questo tema in maniera diversa. E poi c'è un ultimo punto, che è quello invece che per i matrimoni validi, che poi si sono conclusi dopo e con il divorzio, si verifica, e qui c'è la grande divisione, il grande contrasto, se è possibile per i coniugi, cioè per chi si è risposato dopo aver divorziato civilmente, è possibile comunque accostarsi all'Eucarestia. Ma secondo te perché il Cardinal Camillo Ruini ha preso questa posizione così intransigente, sembra tornare indietro rispetto alle aperture del Papa? No, la comunione, non si può cambiare il diritto divino, i divorziati non possono fare la comunione. Per 2 ragioni, perché la comunione è il simbolo del matrimonio, dello sposalizio tra la Chiesa e Cristo, e quindi ed è metafora di quello che è anche l'indissolubilità del vincolo tra i 2 coniugi. Questo è il presupposto teologico che si fonda sull'affermazione di Gesù che appunto il matrimonio è indissolubile, nessuno può sciogliere in terra quello che è stato legato in cielo. E d'altra parte perché quindi la convivenza è anche un secondo matrimonio in sede civile di qualcuno che è già stato sposato, invece dal punto di vista canonico darebbe scandalo. Questa è la posizione antica, la posizione tradizionale della Chiesa. Però dal punto di vista della dottrina ancora mai sovrascritta. Sentiamo Gianetto Regassani, buongiorno. Buongiorno. Presidente dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti, ricordate il noto autore dei Perplessi Sposi. Ecco, alla luce di questo tramestio che sta avvenendo nei locali del Sinodo e dalla tua esperienza quotidiana, ecco, quanto questo potrà segnare un cambiamento perlomeno nelle dolorosissime, faticosissime, laceranti vicende matrimoniali delle persone che hanno deciso di concludere il loro matrimonio? Ma io anche nel mio libro parlo di un capitolo, il divorzio dalla fede, si intitola così, parlo della tragedia di molti cattolici che si sentono un po' esclusi dalla Chiesa, un libro ovviamente datato 3 anni fa, ma in buona sostanza noto un segnale molto importante di apertura del Papa e della Chiesa di oggi verso i divorziati. Tuttavia è una situazione difficile quella della Chiesa, perché da una parte loro stanno perdendo i fedeli, le chiese sono vuote la domenica, perché in Italia siamo ormai una popolazione piena di milioni di separati e divorziati, per cui è evidente che bisogna farsi anche 2 conti dal punto di vista proprio del rapporto col territorio. È un territorio fatto di divorziati, soprattutto nel nord Italia, quindi è chiaro che la Chiesa non può chiudere gli occhi e non lo sta facendo. Altra questione riguarda invece quello che la Chiesa vuole esprimere: chi subisce come vittima il divorzio non può essere trattato alla stregua di chi ha sfasciato una famiglia deliberatamente. Quindi già questo è un segnale importante, ma dubito. E però scusami Gianetto, questo è subordinato al elefantiaco iter processuale. Questo si stabilisce dopo un'infinità di gradi di giudizio per capire chi ha ragione, se io sono stato tradito da una persona che è scappata di casa o io ho creato le situazioni. Sai, andiamo a discutere su questioni di lana caprina. Come fai a dare a uno o l'altro il diritto di poter comunque essere buon cattolico e divorziato? Hai perfettamente ragione, infatti non credo che poi una persona debba andare in parrocchia con la copia della sentenza per dimostrare che aveva ragione o torto, quindi diventa poi a livello attuativo molto difficile questo tipo di principio, però è pur sempre un principio, è pur sempre un distinguo, è pur sempre qualcosa che riguarda la coscienza dei fedeli, quindi magari chi ha subito l'abbandono dell'altro può almeno dentro di sé sentirsi meno peccatore di chi ha sfasciato la famiglia. Credo che sia questa la chiave di lettura, poi è ovvio che pratico, la vedo molto difficile. Sarà sempre trattando di questioni relative allo spirito e alla fede, che sono materie impalpabili, ma non per questo meno profondamente sentite dalle persone, non si può ragionare con la carta bollata in mano. Sentiamo Paolo un attimo. Paolo, primo ascoltatore, 800240024. Paolo. Buongiorno. Allora, io volevo intervenire sul discorso prettamente di preparazione al matrimonio religioso, come ho parlato con la sua collega. E a parte il fatto che statisticamente il 20% delle persone va in chiesa, non vedo quanti cattolici si siano che si strappano i capelli per poter avvicinarsi purtroppo all'eucaristia. Io vorrei veramente che la gente che si avvicina al matrimonio religioso lo facesse veramente con quella voglia e quell'attenta preparazione che comporta. Io sono un cristiano cattolico praticante. Però Fabio, lei ha capito benissimo qual è il problema, è che oggi il matrimonio è un fatto sociale. È chiaro che un matrimonio fatto in chiesa un'altra cosa dal punto di vista dello spettacolo, lo dico in piena coscienza. I matrimoni civili, anche se fatti in posti bellissimi, è una cosa ridicola, perché è un surrogato del matrimonio religioso, quindi la gente non gli va. Certo, ma questo non è mica colpa della Chiesa, però è un po' colpa anche di noi che vogliamo in tutti i modi questo, cioè bisogna anche un po' scindere le cose, e bisognerebbe davvero che io, guardi, sono anche dell'idea, slegandola un attimo dal matrimonio, sarei anche molto più tradizionalista nella comunione, nella cresima, nei sacramenti che per me sono importanti, per un cristiano sono importanti e che dovrebbero essere veramente riservati a chi ci crede davvero. Lei dice, pensa attento come la penso io, chi vuole sposarsi in chiesa e chi dà un profondo e radicato e reale senso trascendente a questa scelta, si deve sposare in chiesa con tutte le garanzie possibili e immaginabili, col migliore delle maniere, però deve sapere che questa è una scelta che richiede poi delle responsabilità. Se poi il matrimonio finisce, non è che può andare a dire no, voglio anche la comunione o altro, fine, è fuori. Uno deve sopportare fino alla fine, secondo quello che è il dettame della Chiesa, anche se una persona ti lascia, ti tradisce, devi vivere in castità, vivere la tua vita e continuare a essere credente, se vuoi, se no è un'altra minestra. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Presenti anche nelle forme imperfette di famiglia, comprese le convivenze prematrimoniali. Curare le famiglie ferite, separati, divorziati, con scelte pastorali coraggiose. Riscoprire nell'enciclica Umane Vitae di Paolo VI il bisogno di rispettare la dignità della persona nella valutazione morale dei metodi di regolazione della natalità. Sono alcuni dei passaggi della prima sintesi del dibattito della settimana scorsa tra i vescovi arrivati da tutto il mondo per il Sinodo della Famiglia. Sulle unioni omosessuali. Ecco, hanno anche ragione, in effetti se uno si sposa in chiesa non è che poi si apre il carnevale di Rio, soltanto matrimoni senza alcun modo di contenere le nasce se non i metodi naturali, quindi con l'orologio e il termometro in mano, e se viene l'ha mandato il Signore, non vi sognate altre cose, non vi sognate fantasie, non bisogna compiacere più di tanto la carne, cioè è una scelta, adesso è una scelta radicale, se volete, almeno la Chiesa ripolarizza l'appartenenza al suo essere, se no altrimenti non ha senso. Fabio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, intanto complimenti per la sua bravura e per i punti di vista sempre interessanti, sì, che ci propone. Senta, io volevo portare la mia testimonianza riguardo a una forma di matrimonio un po' diversa, perché con la mia ragazza abbiamo frequentato un corso prematrimoniale, però io da non credente, lei da credente, questo ovviamente il parroco lo sapeva, tanto che è possibile. Lei l'ha fatto perché vuole fare una cortesia alla sua ragazza che è credente, per amore. Beh, l'ha fatto. Beh sì, diciamo di sì, per me sarebbe più facile non dire niente e sposarmi col rito, diciamo, religioso, senza, no? E invece no, ha voluto seguirla perché stava vicino e le voleva bene. Poi per lei era come io andassi a un, che ne so, a una setta del Sacro Graal, che ne so, vado lì, ascolto, boh, mi faccio due risate, ma non è che mi importa nulla. Invece no, diciamo che ho scelto la strada più difficile, però questo per testimoniare che forse in senso pratico la Chiesa e le parrocchie vanno in una direzione diversa rispetto al sinodo e ai precetti, diciamo, più teologici, più importanti. Quindi lei dovrà lei farà la comunione, si confesserà nonostante che no. Non... No, perché il rito misto prevede esiste il rito misto? Prevede l'assenza della fase di Eucaristia, quindi è una celebrazione sempre religiosa, però un po' diversa, che poi alla fine è la stessa che si fa quando tra due religioni diverse si un musulmano e una cristiana, ammesso si possa, sì. Esattamente, poi tra l'altro nel corso prematrimoniale, diciamo, c'erano anche altre coppie con stesse esigenze, quindi nel senso la situazione in realtà mi sembra più aperta già nei fatti di quello che magari si discute in questi giorni. Sì, io l'ho fatto con la moglie incinta di 8 mesi, il corso prematrimoniale, quindi per dire, poi ci dava allegria in quel momento farlo, eravamo interessati. Ricordo che il prete era molto imbarazzato, nel giornata della spiegazione della necessaria castità prematrimoniale ci guardavano tutti, lei c'era sta pancia e sputava col rotolo di carta in mano e noi naturalmente eravamo considerati al di fuori del mucchio. Fabio, buongiorno. A Fabio ha parlato Valentina. Buongiorno. Sì. Senta, io chiamavo per dire che secondo me invece la preparazione al matrimonio sarebbe molto utile anche per quelli che decidono di fare il matrimonio civilmente. E chi dovrebbe farlo? Dovrebbe essere lo Stato mamma a occuparsi dei suoi figli, fargli un corso prematrimoniale? Perché no? Perché no? Perché sì, perché scusi, ma perché? Proprio per evitare il problema di cui si parlava, dell'Italia fatta di una popolazione ormai di divorziati, nel senso che vengono messe in tavola alcune tematiche che portano sicuramente alla discussione all'interno della coppia. Ma chi dovrebbe essere, diciamo, il ministro di questi corsi? Chi dovrebbe amministrarli? Beh, potrebbero essere per esempio i distretti sociosanitari, sì, che si occupano per esempio psicologi, gruppi. Allora, se non stanno bene, perché devono andare dallo psicologo? Sono convinti di sposarsi? Qual è la figura professionale che dovrebbe fare i corsi di matrimonio? Penso come ci sono per benissimo i terapisti di coppia. Ma se la coppia sta bene, non deve andare al terapeuta. Se uno si sposa, si immagina che stia bene almeno prima di sposarsi, poi magari viene il terapista. Dovrebbe dirgli attenzione che potreste stufarvi l'uno dell'altro, potreste avere delle tentazioni. No, non capisco il razionale, non è che voglio criticarla, ma perché lei pensa ci sia bisogno di questa sorta di medicalizzazione preventiva del matrimonio? A volte proprio viene fatto così, come se fosse una cosa molto superficiale, ma sì, stiamo bene, ci sposiamo, ci stiamo bene qui in questo momento. Vedrei meglio l'avvocato Gassani che col codice alla mano che dice loro attenzione, potrebbe succedere questo, Gian Ettore. Certo, assolutamente sì, anche se ho sentito l'ultima parte perché a un certo punto la linea è andata via. No, sul fatto che, diciamo, che una signora dice che bisognerebbe istituire dei corsi di preparazione matrimoniale anche per i civili, per i laici. Ma infatti, cosa manca secondo te? Qual è l'elemento che manca? Ma il problema è la consapevolezza di una grande assunzione di responsabilità che anche il codice civile impone, quindi non c'è soltanto il precetto religioso, ma il codice civile impone una serie di diritti e doveri, una responsabilità importante perché comunque ci sono i figli e spesso sono le vittime poi delle separazioni, quindi questo atteggiamento consumistico degli italiani rispetto al matrimonio è la vera vergogna, cioè io non sono preoccupato dei divorzi facili, sono preoccupato dei matrimoni facili, perché si sposa per procura, si sposa perché si conosce in chat, attraverso le agenzie matrimoniali ci si sposa donne che dall'altra parte della terra che non hanno mai visto, che non sanno chi sono, e poi dopo 2 mesi si va in tribunale a divorziare. Quindi la signora ha detto una cosa giusta, lei diceva ma ci vuole uno psicologo, un medico, ma non è tanto l'aspetto ci vuole un giurista. ci vuole un terapeuta della coppia che conosce perfettamente come parlare ad una coppia che sta per fare un passo importante, ovviamente credo che debba essere uno psicologo sicuramente, e anche poi con l'aiuto di un giurista, magari in alcuni corsi prematrimoniali è previsto anche l'intervento dell'avvocato in una determinata fase che spiega esattamente e poi in cosa consiste giuridicamente il matrimonio. Non dimentichiamo che il matrimonio produce una serie di diritti e doveri di carattere giuridico, quindi ci sono conseguenze giuridiche da tenere. Ecco, spiegare bene una lezione di diritto, cioè, guarda, tu ti sposi, ma renditi conto, se ti sposi devi prendere atto di tutte queste cose, e se un domani ti stanchi o cambia la situazione dovrai affrontare quest'altra serie di cose che statisticamente implicano un tale sborso di denaro, un tale tempo passato, un tale stress. Quindi non è detto che ti voglio scoraggiare a sposarti, ma fallo con le debite precauzioni. Ignazio Ingrao, dal punto di vista invece della materia che tu stai trattando come vaticanista, si prevede quindi una sorta di specializzazione e maggior rigore di corsi prematrimoniali, e questa è l'idea? Ma dunque, anzitutto sulla faccenda dei corsi prematrimoniali in comune, il comune di Venezia, se non sbaglio, ha già creato questa offerta per le coppie con questo consulente giuridico affettivo, quindi è una cosa che credo che sia già stata operativa dal punto di vista di alcuni comuni, per esempio a Venezia. Per quello che riguarda la Chiesa, attenzione però, non vorrei che passasse l'idea che a questo punto il matrimonio diventa solo per gli eroi o per i santi e gli altri fuori. L'obiettivo di Papa Francesco invece è quello proprio di dire, comunque, siccome il matrimonio è un sacramento, per chi ci crede porta la grazia nel rapporto di coppia, questo è un aiuto per vivere meglio il matrimonio e il rapporto di coppia, anche con tutte le fragilità che poi possono venire fuori, ma questo è nella vita di tutti, altrimenti se si alza troppo l'asticella è evidente che a questo livello non ci può arrivare nessuno. Grazie Ignazio Ingrao, la sigla ci abbiamo finito, grazie Gianettore Gassani, mi scrive un ascoltatore: Nicoletti, aggiornati, il 90% dei divorziati risposati fanno tranquillamente la comunione, e mica posso andare a domandare a tutti quelli in fila se sono sposati o no. A domani.